E se i Maya avessero ragione? Nel dubbio, prepariamoci alla fantomatica apocalisse. Hai preso impegni per la fine del mondo. E fra qualche giorno. Su Radio 24, la notte prima della fine del mondo, con Federico Taddia, Massimo Gramellini e il filosofo della scienza Telmo Piavani. Si dice che viene una volta soltanto. Giovedì 20 dicembre, dalle 21.15 alle 24, uno speciale in diretta tra scienza, spiritualità e ironia, con ospiti, collegamenti e le eredità lasciate dagli ascoltatori che chiameranno l'800 24 00 24. Potete scrivere il vostro personale testamento anche all'indirizzo finedelmondo@radio24.it. Aspettando i Maya con Radio 24, il 20 dicembre alle 21.15.